Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. I primi segnali forti sono iniziati ad arrivare la settimana scorsa, in particolare il 5 maggio, quando in una seduta che a detta di molti operatori non si vedeva dai tempi di Lehman Brothers, le commodities, le materie prime, sono state letteralmente travolte da un'ondata di vendite. Il petrolio, che solo qualche giorno prima viaggiava sui massimi del 2008, ha perso in un giorno solo il 9%. Il WTI, il greggio di riferimento americano, è sceso sotto la soglia psicologica dei $100. Il rame, che 3 mesi fa viaggiava a livelli record, è crollato ai minimi del dicembre 2008. E così anche lo stagno, meno 7% in un giorno, il cotone, lo zucchero e il cacao. Ma il caso più emblematico riguarda l'argento. In 12 mesi ha guadagnato il 170% e solamente la settimana scorsa ha perso il 30%. Ma anche nella settimana che si chiude oggi, la volatilità ha continuato ad essere la protagonista del comparto, a causa questa volta dei futures sulla benzina, che nella giornata di mercoledì sono stati addirittura sospesi al ribasso. Cosa sta succedendo? Siamo davvero prossimi allo scoppio della bolla delle materie prime? E soprattutto, cosa rischiano i risparmiatori che negli ultimi mesi hanno cavalcato l'onda della crescita delle quotazioni investendo in prodotti che appunto puntano sulle materie prime? Mi va di traverso la saliva, nel frattempo sono partita molto concitata. Questa è la storia di copertina di domani, di Plus 24, del Sole 24 Ore. Lucilla Incorvati, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi parleremo proprio di tutto questo per capire insomma verso quale situazione stiamo andando, bolla, non bolla, e per quale motivo questa situazione dovrebbe interessarci. Quindi faremo anche un esame del mercato con Paolo Kaufmann, analista del mercato delle commodities, anche se specializzato nel settore industrial. Kaufmann, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi naturalmente un'occhiata anche agli strumenti di investimento in questo settore con Marco Ciatto, Managing Director di ETF Consulting. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ovviamente ci piacerebbe che interagiste con noi questa mattina, che in qualche maniera ci diate una mano a vivacizzare la nostra trasmissione con le vostre domande in diretta all'800240024, oppure in alternativa scrivendoci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di monitorare il tema delle materie prime, andiamo a monitorare la seduta di borsa di oggi, che era partita bene con dei rialzi diffusi su tutti i listini. Vedo invece che adesso la situazione sta cambiando a Piazza Affari, dove il FTSE MIB perde lo 0,12%, perché a trascinare a ribasso Milano, al contrario delle altre piazze europee che stanno mantenendo un rialzo in alcuni casi anche abbastanza interessante, oltre mezzo punto a Parigi e Londra, mentre Francoforte ha più 0,29%, ci sono alcune storie. Appunto, a Milano Azimut sta perdendo il 4,66%, TOTS meno 4, Prismian, in qualche maniera l'andamento di questo titolo è anche riconducibile alle materie prime, il titolo perde il 2,78%, la Popolare di Milano meno 2,39, Mediolanum meno 2,12, Autogrill meno 1,87%. Per la verità i titoli negativi sono molti, i positivi pochi, e quelli che sono in terreno positivo guadagnano il 2,38% partendo da Unicredit, che è il miglior titolo della seduta. Il gruppo balza dopo la trimestrale comunicata ieri a mercati chiusi ed è in corso ancora la conference call dei vertici con gli analisti finanziari. Enel più 1,28 anche in questo caso, dopo i conti trimestrali superiori alle attese, la conferma degli obiettivi per il 2011. Campari più 1,18, Tenaris più 1,13%. Euro su dollaro a 1,42,85. I prezzi del petrolio invece come sono andati nelle ultime ore? Hanno proseguito il loro ribasso in un mercato appunto caratterizzato, come dicevamo all'inizio, da grande volatilità. Il greggio di riferimento americano, il WTI, quota sui $98 al barile, il Brent del Mare del Nord è intorno ai 112, e sono proprio le materie prime il tema di Salva Danaio di oggi. Una nuova bolla pronta a scoppiare? Mentre si torna a parlare di quella della New Economy, dopo la maxi operazione Microsoft Skype dei giorni scorsi, c'è un comparto che secondo alcuni sarebbe pronto a esplodere. Quello delle materie prime. Guardando l'andamento dei prezzi di argento, oro, petrolio nelle ultime settimane, molti infatti hanno ipotizzato questo scenario. Dopo essere state le protagoniste dei mercati internazionali nei mesi scorsi, complici le speculazioni e le tensioni geopolitiche, le materie prime hanno invertito la marcia. Dall'inizio di maggio a guidare i ribassi è l'argento, con un calo che si aggira intorno al 20%, ma anche nickel, rame, rispettivamente meno 8,5% e meno 6,5%, e il petrolio stesso. Ancora ad incidere sulle oscillazioni di mercato, le speculazioni, i realizzi dei molti che nei mesi scorsi avevano investito sul rialzo del settore e in particolare la possibilità che la Cina possa alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione, rallentando di fatto la domanda di materie prime. A pesare infine è stata anche la rinnovata forza del dollaro, che pesa anche sui prezzi dei metalli preziosi. Una forte domanda di dollari allenta di fatto quella di materie prime come investimento alternativo, rendendo i metalli espressi nel biglietto verde più costosi per i titolari di altre valute. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta. Se il tema vi appassiona, in qualche maniera vi incuriosisce, chiamateci, ne discuteremo con i nostri ospiti, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Il primo giro di microfono lo inizio con Lucilla Incorvati, plus 24 del Sole 24 Ore, per farci raccontare in anteprima mondiale, Lucilla, la storia di copertina di domani di Plus. Il tema, l'ho già detto, le materie prime. Come lo affrontate, come lo articolate? Lo affrontiamo intanto sempre cercando di dare dei suggerimenti ai piccoli risparmiatori, che sono poi i nostri interlocutori. Non è facile dare delle indicazioni in questo momento, perché l'universo delle commodity è estremamente ampio e quindi all'interno di questo ci sono variabili notevolissime. Dicevate nella scheda che c'è una forte correlazione fra il prezzo del dollaro e le materie prime, e questo è molto vero, però è anche vero che ci sono alcune materie prime, pensiamo alle cosiddette soft commodity, quindi cotone, caffè, cacao, che risentono di molti fattori che sono legati, per esempio, a fenomeni del tempo, meteorologia, sì, a fattori geopolitici, eccetera. E cosa dire poi dell'oro? L'oro è una moneta ormai diventata un bene rifugio per eccellenza, e di solito, appunto, abbiamo visto in quest'ultimo anno e mezzo, da quando la discesa del dollaro è stata continua e sempre più repentina, si è un po' comportato come l'altro altare, l'alternativa, no? Capire tutte queste dinamiche per un piccolo risparmiatore non è facile, perché non è un addetto ai lavori. Ci sono stati poi degli strumenti, qui abbiamo un grande esperto, che sono appunto gli ETC, che sono uno strumento finanziario nuovo che ha cavalcato molto l'onda di questo successo delle materie prime, ma è uno strumento complesso al quale è importante avvicinarsi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto anche i fondi comuni di investimento che investono in questo settore, che rappresentano sicuramente un'alternativa, e certamente nell'ultimo anno sono stati prodotti di grande successo da un punto di vista di performance. Cioè, poi abbiamo toccato anche l'aspetto azionario, perché è possibile anche investire con un atteggiamento anche da cassettista, quindi prudenziale, quindi con un'ottica di investimento di medio-lungo periodo su azioni di questo settore. Ricordiamoci che le materie prime, tutte, ma in particolare i metalli ferrosi, i metalli industriali e anche le soft commodity, seguono molto i grandi trend, quindi l'urbanizzazione, l'aumento della popolazione nell'Asia, e quindi per chi volesse cavalcare questo trend si può anche avvicinare, ma è un settore rischioso, quindi posizioni ridotte anche per chi decide di andare sull'investimento azionario, e sempre assistiti da personale esperto, quindi consulenti. Ovviamente questi sono suggerimenti non di Lucilla Incorvati, ma degli esperti che abbiamo sentito. Quindi comunque il tema della massima diversificazione penso, insomma, che possa essere assolutamente condivisibile. Non mettere tutte le uova in un paniere è, come dire, la regola principale dell'investimento. Vorrei però capire quello che sta succedendo in questi giorni sul mercato con Paolo Kaufmann, appunto analista nel mercato delle commodities, delle materie prime. Qui poi peraltro facciamo anche una gran fatica a tradurre tutti i termini inglesi in italiano, dobbiamo sforzarci anche di fare un esercizio di chiarezza per i nostri ascoltatori stamattina, però dobbiamo anche spiegare quello che succede nel mondo, anche perché proprio questo forte movimento è anche frutto dell'enorme globalizzazione. Kaufmann, abbiamo visto come negli ultimi anni i prezzi delle delle materie prime tutte siano cresciuti molto proprio in relazione alla crescita economica di determinate aree del mondo, la Cina e l'India in primo luogo. Adesso il forte calo che si sta registrando sulle quotazioni di quasi tutte le materie prime degli ultimi giorni non è più riconducibile appunto alla forte crescita economica di questi paesi, che non è che si sia fermata anche alla luce della crisi economica mondiale degli ultimi anni. Che cosa è accaduto realmente? Ma Deborah, la ringrazio per la domanda. Farei un piccolo passo indietro e precisamente tornerei alla trasmissione che abbiamo fatto insieme all'inizio di quest'anno su che cosa ci aspettavamo da questo comparto delle materie prime. Riascoltandola questa mattina veniva giustamente citato, e direi che anche oggi è importante ricordarla, la manovra di quantitative easing, quindi di immissione di liquidità che hanno effettuato gli Stati Uniti, che ha provocato un inflazionamento, quindi un deprezzamento del valore del dollaro e conseguentemente un aumento del valore delle materie prime. Quindi non ci siamo mai negati che performance nell'ordine del 20, 30, 50 o, come avete citato nel vostro servizio, il 170% per alcune materie prime era del tutto ingiustificabile alla luce degli andamenti economici. Quindi evidentemente c'è stata una forte manovra finanziaria che è stata fatta dagli Stati Uniti dopo il crack Lehman del 2008, e quindi per salvare i mercati è stata immessa questa liquidità. Questa liquidità ha preso la strada dei mercati finanziari, molti non l'avrebbero voluto, ma è quello che è accaduto nella realtà. E proprio nel 7 gennaio ci dicevamo, è chiaro che se guardiamo avanti dobbiamo stare molto attenti a quando questa liquidità inizierà a venire ritirata o si prospetterà sul mercato una riduzione o magari una non continuazione, prima di una riduzione magari una non continuazione di questa manovra. E questo quindi è quello che è successo, la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana non è che ha detto ricomincio ad alzare i tassi, però in ogni caso mi fermo un attimo, non faccio la Q3, la quantitative easing numero 3 appunto, che era prevista per giugno, quindi non procederò nella mia operazione di riacquisto di titoli di Stato. Mi sono accavallata a lei, Kaufman, molto banalmente perché devo già chiudere il primo blocco, quindi già immagino di sintetizzare quello che avrebbe detto. Quindi questo è stato il primo step, il primo passo che ha portato a questo primo tracollo dei prezzi che abbiamo visto negli ultimi giorni. Poi cercheremo di capire se ci sono anche altre ragioni, perché il caso più emblematico ha riguardato proprio l'argento, quindi magari questa storia la vorremmo sapere un po' più nei dettagli. Marco Ciatto, non riesco ancora a sentirla, però l'altro tema interessante è che le quotazioni delle materie prime stanno scendendo, almeno questo è quanto accaduto negli ultimi 10 giorni, ma i volumi sugli strumenti che investono su questi prodotti sono tutt'altro che ridotti, anzi si stanno intensificando notevolmente. Anche questo è un fenomeno da leggere con grande attenzione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Già pronto Annibale, con un nome temibile, da Reggio Emilia, lo sentiremo tra pochissimo. Ritorna Salva Danaio oggi, come facciamo quasi sempre di venerdì, si occupa e va ad intrufolarsi tra le pagine di Plus 24 del Sole 24 Ore di domani, la storia di copertina dedicata al tema delle materie prime, a questo forte tracollo dei prezzi, soprattutto su alcune che c'è stato negli ultimi giorni, e soprattutto si ritorna sugli strumenti di investimento adeguati per puntare su questo settore con successo, ma a volte anche con insuccesso, perché avete visto quello che è successo appunto nelle ultime settimane. Non è che perché negli ultimi anni il settore stava crescendo incessantemente poi non si possa assistere a delle fasi di stop anche molto dirompente, come quella appunto che si sta vedendo. Stiamo indagando sulle ragioni, stiamo cercando di capire se le quotazioni possono riprendere, soprattutto, dicevo, gli strumenti di investimento. Marco Ciatto, Managing Director di ETF Consulting, sto sforzandomi di non utilizzare termini in inglese, qual è la sua amministratore carica? Delegato, ecco appunto, e quindi sarebbe stato insomma responsabile quantomeno di questo anche sito di informazione finanziaria sul settore, lo cito per i curiosi, www.etfplus.net. Allora, dicevamo, i prezzi di gran parte delle materie prime negli ultimi giorni hanno avuto una battuta d'arresto molto forte, certo. E però a giudicare dai volumi di scambio degli strumenti di investimento che investono nel settore non c'è per niente crisi. No, assolutamente. Nel mercato ETF Plus, quello italiano appunto dedicato sia all'ETF che all'ETC, abbiamo un incremento dei volumi ma anche del patrimonio che è stato registrato sia praticamente dall'inizio dell'anno tutti i mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, vedremo ora poi le statistiche di aprile. aprile, ma sono convinto che appunto sia in termini di controvalore sia appunto di asset, soprattutto le ETC stanno, l'ETC ricordiamolo è praticamente traded commodity, esatto, il paritetico ETF in materie prime, anche se non molti suoi colleghi sono d'accordo nel fare questa identificazione, questa parificazione. No, diciamo che hanno molti aspetti in comune. La cosa che va evidenziata principale è appunto che un ETF è un fondo, una SICAV, quindi con un patrimonio segregato e tante altre cose, che non hanno invece le ETC, che sono dei titoli, una sorta di asset backed securities, o meno, diciamo delle obbligazioni, in cui il valore è per il 99,99% legato alla materia prima di riferimento o a un indice di materia prima o un paniere, basket di paniere prime. Esatto, che nella totalità quasi dei casi è collateralizzato, ovvero che ha un patrimonio di titoli a garanzia di questo strumento, quindi appunto nel caso c'è stata prima una Merkel letto, ci fosse un default diciamo della controparte che utilizza questi future sottostante materie prime, dovesse fallire, avesse dei problemi come in passato è stato per AIG, c'è comunque un paniere di titoli su cui si può diciamo rifare l'investitore, in questo caso la società emittente, che liquidandoli appunto rende questo patrimonio in cash, diciamo in denaro, agli investitori. Colgo l'occasione di questa spiegazione che lei ci ha fatto per proprio anche raccontare quello che ci dicevamo a microfoni spenti. Sì. Non è un settore sul quale avventurarsi con leggerezza, nato proprio per accontentare esigenze sempre più sofisticate di investitori istituzionali e che però adesso è diventato anche d'appannaggio di investitori retail, quindi di piccoli risparmiatori. Su quali settori puntano in particolar modo i piccoli e secondo lei onestamente capiscono bene la dinamica del funzionamento di questi strumenti di investimento? Allora, parto da questa seconda domanda, la maggior parte no, non solo retail ma anche qualche istituzionale. Ah bene, perché lo posso dire perché ricevo appunto delle email con delle domande che fanno appunto esattamente, dicono questa cosa qui. La prima cosa che non capiscono è che appunto l'investimento in commodity può essere fatto sia sul fisico, quindi lingotti d'argento, d'oro, e lì la cosa è molto semplice perché l'ETC va a acquistare, l'emittente acquista con il denaro che riceve dagli azionisti di questi strumenti i lingotti d'oro e d'argento che vengono deposati in un cavò, e quindi il prezzo di queste materie prime è legato a quello spot, diciamo, che troviamo anche su tutti i giornali, compreso Sole 24 Ore. Quello che invece succede sulle altre materie prime che in cui vengono utilizzati degli indici di future su materie prime singole o aggregate, quindi the basket, è che appunto il suo prezzo non è quello spot che possiamo trovare appunto sui giornali, sui siti internet, ma è dato appunto da un future sulla materia prima, il che comprende una serie di tre diversi fattori di rendimento. Uno è appunto quello spot, quindi il prezzo della materia prima. L'altro è quello più importante, diciamo, in molti casi legato al rinnovo di questi future, perché hanno una scadenza che può variare da uno, due, tre mesi e periodicamente devono essere rinnovati, il che comporta vendere il contratto precedentemente acquistato e comprarne uno nuovo, che può avvenire sia a un prezzo superiore che inferiore e quindi portare a un guadagno o a una perdita semplicemente appunto cambiando questo future. E poi c'è un altro componente che viene data dal rendimento, diciamo, del margine e del capitale investito in base ai tassi di mercato, quindi una componente positiva legata al treasury a tre mesi. È il treasury, che è il titolo di Stato americano. Esatto. Mi fa un po' male la testa con tutto quello che lei ci ha spiegato fino a un certo punto. Ho perso ovviamente la strada, lo ammetto. Questo per dire, è una scommessa. Ricordiamo che il future è una scommessa, esatto, ragazzi, è un contratto finanziario, esatto. Quindi uno, e poi ecco, non correlare mai l'andamento dello strumento di investimento che ha esattamente l'andamento del prezzo della materia prima, perché è un po' come quello, certo, che succede sulla benzina. Quando noi vediamo che il WTI, il Brent diminuiscono tanto e non vediamo la stessa identica direzione della benzina, perché la benzina va correlata al Platts, che è un'altra cosa, per cui purtroppo non ci sono queste correlazioni dirette ed è bene che lo si sappia. Certo. Volevo ritornare un po' al mercato, a quello che è accaduto negli ultimi giorni con Paolo Kaufmann, che prima brutalmente ho interrotto per chiedergli se ci aiuta a raccontare quello che è successo sull'argento, che è stata un po' la causa scatenante poi del tracollo di molti altri prezzi. Kaufmann. Sì, direi che il mercato si muove, questa è un'altra delle cose che cercherò di spiegare in italiano, sì, visto che abbiamo fatto un buon proposito, si muove sulle aspettative, quindi quando un mercato riceve una serie di acquisti, si creano delle, chiamiamole delle bolle, al rialzo, ma allo stesso modo possono crearsi anche al ribasso, e questo è il caso dell'argento, dove abbiamo avuto una serie di prese di profitto, si chiamano stop loss, che vengono lasciati nel mercato, perché soprattutto gli operatori professionali sanno che sono mercati piuttosto piccoli. Ecco, questo è una cosa che abbiamo già richiamato, ma gli investitori che entrano in questi mercati devono sapere che rispetto a un mercato azionario o un mercato valutario, i mercati commodities sono dei mercati piuttosto limitati come quantitativi. Quindi quando c'è una quantità di denaro che entra all'acquisto, si provocano dei rialzi di cui abbiamo parlato, allo stesso modo quando i mercati scendono. È la fattispecie dell'argento, dove abbiamo visto nell'ultima settimana prima del 5 maggio, come veniva richiamato nel vostro servizio, abbiamo avuto una serie di rialzi impressionanti e allo stesso modo una serie di discese altrettanto impressionanti, e questo tradotto sempre in italiano lo possiamo tradurre con la volatilità. Quindi io quello che direi, traducendo, proprio dando un'indicazione molto semplice all'investitore, è: quando vedi che un mercato ha una volatilità eccessiva, vale a dire che ogni giorno sale del 10%, ecco, sappi che siamo in una fase nella quale altrettanto a breve può capitare al ribasso, perché la naturale domanda offerta, quello che viene così scambiato sul mercato, non giustifica dei rialzi o ribassi di questa dimensione. Quindi, e non ci dimentichiamo poi anche l'aspetto valutario, Lucilla, anche su questo esprimete delle raccomandazioni molto rigide ai possibili sottoscrittori di questi strumenti di investimento. Tu tra due minuti so che ci devi lasciare, quali altre raccomandazioni fate? Sì, raccomandazioni sono appunto l'aspetto valutario. Per esempio, se noi pensiamo alle materie prime preziosi, metalli preziosi, ecco, si trovano in Australia e in Sudafrica, quindi chi va a comprare per esempio le azioni di società aurifere ha anche questo rischio della valuta, per fare un esempio banale. Oppure piuttosto, quando si vogliono comprare delle materie prime che sono, non so, pensiamo al cacao, che ha fatto storia in questi giorni perché è crollato repentinamente per l'accentuarsi della crisi in Costa d'Avorio, primo produttore, anche lì in valuta locale, quindi assolutamente non avventurarsi in queste cose. La seconda raccomandazione che diamo è, dicevamo prima in apertura, quella di essere assistiti da degli esperti, perché non è un settore assolutamente facile, quindi sia che si comprano delle azioni, sia che si compra direttamente la materia prima, quelli scellerati che vogliono farlo, che si portano a casa il barile, mi sia, esatto, no, sia chi vuole avvicinarsi con gli strumenti di risparmio gestito, è bene che segua le indicazioni veramente di chi sa fargli una prospettiva a breve, medio e lungo periodo, perché lo scenario può cambiare repentinamente. Basta vedere quello che è successo all'inizio dell'anno con la crisi del Maghreb, insomma, anche se poi per esempio altri fattori che magari potremmo immaginare possano provocare uno sconvolgimento chissà di che prezzi, di chissà quale entità dei prezzi, tipo la morte di Osama Bin Laden, certo. E invece diciamo quel fattore là ha provocato che, dire questa cosa, concludo e vi saluto, che sicuramente i trend di lungo periodo, quindi l'urbanizzazione in Asia, l'aumento dello sviluppo economico in Cina, India, Brasile, che sono trend di lungo periodo, ci sono i numeri, è certo, sicuramente questi trend porteranno ad un aumento della domanda dei metalli industriali, e questi metalli sicuramente avranno dei prezzi probabilmente più stabili da qui ai prossimi, dicono sempre gli esperti, fino al 2040. Lucilla, grazie a voi. Noi adesso andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, però rimaniamo con Marco Ciatto e Paolo Kaufmann a rispondere alle vostre domande. Ci dispiace perché si era stancato Annibale, il nostro ascoltatore, e lo abbiamo perso. Adesso speriamo di riacciuffarlo tra poco. eccoci di nuovo in diretta e allora ritorniamo a Salvadanaio a parlare di materie prime e stavamo così un po' considerando ancora a microfoni spenti su quali converrebbe investire in questo momento e ovviamente abbiamo fatto il commento più banale del mondo sul cacao perché lo so io bene dove lo metterei tra le ganasce perché sicuramente quella è la collocazione più adeguata. Detto questo volevo ritornare a Marco Ciatto di ETF Consulting per capire appunto qual è il miglior approccio possibile su strumenti di investimento che comunque hanno una dinamica molto complicata come abbiamo avuto modo di capire. In ogni caso ritornando un po' all'esame del piccolo risparmiatore che punta su questi su questa asset class, ritorniamo alla terminologia inglese, comunque su questi strumenti di investimento, quali sono quelli che sono stati più cavalcati negli ultimi tempi? Ci sono state anche delle avventure un po' stravaganti da parte dei piccoli risparmiatori, Ciatto? Sì, molto, soprattutto da quelli che sono trader. La materia prima per eccellenza è il gas naturale. Natural gas sia soprattutto anche nella forma levereggiata, diciamo, quindi l'ETC Leverage Natural Gas sono tra le più scambiate. Cosa vuol dire levereggiata? Lo sa che tanto gliel'avrei chiesto. Sì, praticamente che la performance dell'indice di riferimento viene appunto moltiplicata di due volte, quindi una leva pari a due, quindi per ogni e perché diciamo, si deve fare questo meccanismo? Per aumentare ovviamente le potenzialità di guadagno, ma anche quelle di perdita ovviamente, quindi anche la volatilità stessa raddoppia in questi casi, quindi ancora maggior attenzione rispetto ad altri strumenti. Oltre al natural gas, diciamo che quelle fisiche, oro e argento, senza dubbio, sono quelle più utilizzate, non tanto in termini di contratti, diciamo, ma più in controvalore e sicuramente in patrimonio, in termini di asset. E poi quelle energetiche. Prima su tutte il petrolio. Non riusciamo a recuperare Annibale, però io la sua domanda gliela faccio, Ciatto, perché comunque secondo me rappresenta proprio di nuovo il problema di cui parlavamo prima, la difficoltà a capire bene la natura di uno strumento di investimento quando lo si sceglie. Lui voleva raccontarci che ha scelto degli ETF, quindi non ETC, però comunque sono paragonabili, che sono andati benissimo per anni, da qualche mese stanno andando malissimo, che fare? Sul che fare adesso non glielo possiamo dire noi, Annibale, veda lei quanto grado di tolleranza hanno anche le sue coronarie e quanto, come dire, riesce che tipo di perdita riesce a sopportare anche il suo investimento. Detto questo, non è che scegliendo uno strumento di investimento dobbiamo ipotizzare che quello vada sempre bene per tutta la vita, Ciatto? Ma no, assolutamente, quello che sale poi scende, ma magari, di solito, allora perlomeno nel breve termine, insomma, le correzioni di mercato ci sono sempre state e ci saranno sempre, soprattutto quando ci sono degli incrementi di guadagno molto accelerati. E poi ricordiamoci sempre che tanto più velocemente sale uno strumento finanziario, tendenzialmente tanto più velocemente scenderà nei momenti appunto di correzione o di perdite, e anzi questo momento sarà sempre più amplificato rispetto a quello di salita. Quindi una materia prima, un asset class qualsiasi, azioni, obbligazioni, tendenzialmente fanno più presto a scendere che a salire, quindi ricordarsi di quello. Poi ora purtroppo l'investitore non ha detto su quali, categorie ha investito, se appunto azioni, obbligazioni o anche materie prime, perché ricordiamoci che per andare sulle materie prime è possibile anche utilizzare gli ETF oltre che l'ETC. Se appunto vogliamo puntare su un settore in particolare come quello dei metalli industriali o le materie prime agricole, è possibile farlo anche con gli ETF. Con una garanzia in più, perché appunto, come dicevamo inizialmente, si tratta di fondi SICAV che danno una garanzia sicuramente superiore. Mi sta dicendo la collega Gaia Romani che Annibale, che non abbiamo riacciuffato, quindi mi faccio io portavoce del suo caso, aveva un investimento di ETF in gas. Ecco, quindi come presumevo non erano ETF ma sono ETC. ETC. Purtroppo vengono scambiate. Levereggiato, il famoso levereggiato, per cui diciamo è probabile, che... sì. Dove possa arrivare non lo so, non glielo so dire, è molto difficile, appunto perché è una materia prima estremamente volatile, soprattutto in tutti i sensi. Sì, e poi appunto è stata utilizzata un po' dai trader proprio per questa peculiarità, cioè per l'elevata volatilità. Quindi vengono fatti degli acquisti, delle vendite anche intraday. Ecco, ha detto una parola giusta, viene utilizzato questo strumento dai trader, quindi capire anche come Annibale se lo sia ritrovato nel portafoglio, sperando che non ci abbia investito molto. Volevo ritornare invece a Paolo Kaufmann, se no penserà che l'ho invitato così tanto per ascoltare noi, per capire quali altri temi sono stati cavalcati in negativo negli ultimi tempi. Il rame per esempio perché è tracollato in questa maniera, sempre per effetto diciamo di tutto quello che facevano gli altri, Kaufmann? Il rame ha dimostrato di avere una grande sensibilità al mercato cinese, vale a dire la Cina negli ultimi 2 mesi ha alzato i tassi di riserva richiesti alle banche, che è una forma sostanzialmente di politica monetaria restrittiva, e il rame quindi ha risentito molto di questo fatto e ha iniziato il suo percorso di discesa. È chiaro che parliamo sempre di una commodity che aveva straperformato l'anno scorso, quindi inseguo ancora il ragionamento di prima e il ragionamento che faceva prima anche Chatto, quindi il fatto che quando una materia prima è salita molto, prima o poi viene un profit taking. C'è una presa di profitto, insomma, si passa all'incasso. Una presa di profitto. In questo vorrei dire 2 cose. La prima è che il mercato, dicevamo, sconta le aspettative, vale a dire è giusto che i giornali, l'informazione parli della Cina, parli del cambiamento dei consumi dei cinesi che vanno anche negli agricoli, però c'è da ricordarsi che quando un prezzo di una commodity sale del 100% probabilmente tutte sono già scontate nei prezzi, cioè tutte le notizie che riguardano i futuri cambiamenti dei consumi ipotizzati oggi sono già presenti nei prezzi di oggi. Quindi perché, e questo è una cosa che gli investitori talvolta sottovalutano, perché vanno su questi mercati, ma anche non è la prima volta che questo accade, quando si andava a investire nei titoli del Nasdaq perché si scontavano le aspettative future, poi si è visto che cosa è successo. Altro bel settore che peraltro potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Ecco. Quindi io qui sarei più conservativo e porto amore per il lavoro che faccio, quindi anche verso le materie prime, sono convinto che non sarà una cosa da Nasdaq, ma dall'altro lato però rendiamoci conto che quando abbiamo avuto delle performance a 3 cifre degli assestamenti li dobbiamo avere, quindi devo dire che oggi non mi sento molto pronto a dire ma dove andate a investire, mi piacerebbe dire che strumenti usate per investire più che puntare, perché qua stiamo investendo del denaro, non stiamo facendo delle scommesse così o bianco o rosso. Benissimo. O nero. La ringrazio per questo invito alla prudenza. 30 secondi di tempo prima di salutarci, l'ultima domanda la faccio a Marco Chatto, mi chiedo se ci sono altre frontiere a cui il settore degli ETC guarda, ci sono delle materie prime sulle quali ancora non è stato costruito nessun prodotto? Sì, diciamo ce n'è una molto interessante che ha lanciato Deutsche Bank lo scorso anno sull'uranio, che è l'unica. E altre molto interessanti sono quelle sulle ETC fisiche sui metalli industriali. Quindi un passo indietro? No, ritornate, diciamo, alla concretezza, leveraggiate meno? Esatto, diciamo in questo caso abbiamo non proprio il metallo depositato in cavo perché costerebbe, ma dei warrant che comunque danno diritto. Sono dei warrant del London Metal Exchange che danno proprio la proprietà della materia prima all'investitore. Però attraverso un piccolo intermediario finanziario che appunto è il London warrant, non è diretto. No, ma il London Metal Exchange è diretto. Okay. Grazie da loro. A Marco Chatto, a Paolo Kaufmann che tentano di convincersi, non ci tentano di convincere proprio di un bel niente, speriamo di aver indotto solo la prudenza tutti quelli che ci ascoltano senza scoraggiare nessuno, fare molta attenzione. Grazie a Filippo Aureggi che mi invita alla fretta e a chiudere. Noi ci risentiamo lunedì in diretta da Torino dal Salone del Libro, raggiungeteci perché ci divertiremo da lì. Buona giornata.